A bordo campo di Dario Ricci. Oggi a bordo campo parliamo proprio sottovoce, perché l'ospite, lo sentite, è già in collegamento con noi, ma l'ospite che abbiamo oggi qui al nostro microfono, per permettergli di arrivare al suo obiettivo a Londra 2012, dobbiamo disturbarlo il meno possibile, perché gli serve il massimo della concentrazione e il massimo del silenzio per centrare l'obiettivo e il bersaglio. Quando il bersaglio è centrato, poi c'è un grande applauso e si festeggia e si saluta soprattutto Niccolò Campriani. Benvenuto a bordo campo, Niccolò. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Allora, Niccolò, abbiamo provato a scherzare, perché? Perché tu sei campione particolarissimo della spedizione azzurra, campione europeo nella carabina da 10 metri nel 2009, campione del mondo nel 2010. Il vostro sport, se non c'è il silenzio assoluto, non si può fare, perché per centrare quel bersaglio è veramente, altrimenti è impossibile, è vero? Sì, sicuramente il silenzio è una parte, ecco, degli elementi, poi ovviamente c'è tanto lavoro dietro e poi magari un pizzico di fortuna non guasterebbe fra qualche settimana a Londra. Eh sì, diciamo che speriamo proprio che il silenzio sia d'oro a Londra, tanto per parafrasare il detto. Beh, Niccolò, classe 1987, fiorentino, mi spieghi subito una cosa, domanda che vince l'Oscar della banalità, ma se tutti noi cominciamo a giocare a calcio eccetera eccetera, come fa un ragazzo invece a appassionarsi alla carabina, sport ben più particolare? No, ma anch'io ho cominciato infatti giocando a calcio, rimanendo nella banalità, però ecco, poi mio padre era un tiratore di pistola a livello amatoriale e nel 2000, quando avevo 13 anni, mi ha portato lui al poligono per la prima volta ed è stato un colpo di fulmine. Poi i primi anni ho affiancato il tiro al tennis, tutte e due lo facevo a livello agonistico, poi quando il tiro si è fatta una cosa un po' più seria, entrando nella nazionale juniores, iniziando a tirare campionati europei, giovanili e cose così, allora ci siamo, ecco, specializzati, tra virgolette. Sei destro o mancino? E come destro. Influisce? Questa cosa dal punto di vista tecnico influisce in qualche modo? Semplicemente, per lo più, appunto, il 90% dei tiratori è destri. Influisce solo perché quando ti trovi un mancino, di solito tiriamo tutti di lato, no? Quando ti trovi un mancino vuol dire che ce l'hai di faccia per tutta la gara, quindi a volte è una situazione un po' di imbarazzo, altrimenti una volta che siamo in linea uno accanto all'altro, di solito uno vede le spalle del tiratore accanto. Ah, quindi è come a tavola quando te lo trovi vicino che taglia la carne, insomma, rischiate di darvi qualche gomito. Ecco, insomma, una cosa così. Peccato, se ci fosse una ragazza, uno magari potrebbe anche intavolare un discorso per organizzare una pizza dopo la gara, ecco. Magari non all'Olimpiade, però sì. Senti, parlando di cose serie, si arriva a Londra con un palmarès di tutto rispetto, anche le riviste specializzate internazionali, e lo sappiamo, in questo caso gli statunitensi sono quasi la Bibbia delle previsioni olimpiche, ti accreditano ai massimi livelli. Io la parola podio non neanche la pronuncio, però insomma è sottintesa. Aggiunge pressione in uno sport dove la pressione è tutto, forse? Beh, sicuramente questi 4 anni ho lavorato molto molto bene. Dopo le Olimpiadi di Pechino, ecco, ho fatto tesoro dell'esperienza cinese e mi sono messo sulla buona strada. Ho passato gli ultimi 3 anni negli Stati Uniti, dove ho finito i miei studi universitari e mi sono laureato in ingegneria proprio lo scorso dicembre. Complimenti. Grazie. E nel frattempo, appunto, mi sono allenato con i tiratori americani e soprattutto con questo grandissimo psicologo dello sport che si chiama Ed Essel, che ho trovato in West Virginia, dove ho studiato, e che oltre a essere uno dei migliori psicologi del mondo è stato anche campione olimpico di tiro a Los Angeles 84, e con lui, insomma, abbiamo intavolato una preparazione che mi ha portato a dove sono ora, appunto uno dei favoriti delle Olimpiadi. Ecco, la parola medaglia non è un tabù, io mi rendo conto e mi assumo le responsabilità. Oh, bravo, questo ci piace. Ecco, beh, no, ma nel senso, sarebbe sciocco, no? Sarebbe coprirsi dietro un dito. Io so che posso essere uno dei favoriti allo stesso tempo, però ecco, non mi ritengo il favorito, bisogna bisogna non temere, ma quantomeno rispettare gli avversari. Ci sono i cinesi che hanno preparato queste Olimpiadi ancora una volta nel migliore dei modi, sono fortissimi e mi aspetto dei punteggi da record del mondo a Londra. Ci sono altri tiratori molto, molto bravi quanto me, preparati quanto me, quindi vedremo un po' quel giorno lì. Poi da noi la differenza tra arrivare primo e arrivare quarto si parla di mezzo millimetro a volte, un capello, quindi ovviamente quel giorno lì dipenderà dal tiratore, bisogna essere bravi ma bisogna anche essere, ecco, un pizzichino fortunati, quello certo. Può fare la differenza come tutte le cose, ecco, tra l'oro e rimanere fuori. Assolutamente, purtroppo a Pechino l'hai conosciuto sulla tua pelle, perché sei rimasto nei primi tre per i primi 59 colpi e poi proprio all'ultimo l'errore, no? Ecco, e sei arrivato poi lontano dai primi. Decimo a pari merito. Infatti, decimo a pari merito. Senti, è difficile dimenticarsi quell'errore, uno se lo sogna tutte le notti, lo psicologo americano, ex campione, credo che sia stato parecchio utile in quel senso. Sì, ma allora... lo shock tra virgolette di Pechino è stato utilissimo, ecco, perché al di là dell'errore mi ha insegnato, ecco, da lì in poi a cercare di finire le gare dal primo all'ultimo colpo senza avere rimorsi, quindi quello sarà anche l'obiettivo di Londra, lasciare la linea sapendo che uno ha provato tutto dal primo all'ultimo colpo. Il problema di Pechino è che in quel momento era probabilmente una situazione più grande di me e lì sono andato e ho tirato il grilletto il prima possibile, quasi come per liberarmi del fardello. E poi ovviamente quello che ti fa star male non è l'errore di per sé, ma il fatto che non hai fatto niente per evitarlo, quindi tutti rimorsi, ma se avessi provato, ma se avessi fatto. Quindi questa è la lezione preziosissima che ho imparato da Pechino. Poi questo non vuol dire che da Pechino in poi ho fatto sempre il 100% l'ultimo colpo, però ci ho provato almeno, e questo è veramente l'importante, soprattutto in una gara come l'Olimpiade, provarci fino in fondo al meglio delle tue possibilità e poi guardi la classifica e vedi dove sei, ecco. La vostra è una disciplina che soprattutto negli Stati Uniti ha grande contiguità con l'ambiente militare, se non sbaglio molti sono anche i reduci dai fronti di guerra, Afghanistan, Iraq, che poi sviluppano in qualche modo a livello agonistico e anche olimpico, no? Quelle capacità acquisite in ambito militare. Sì, a parte rare eccezioni, direi il 90% della nazionale maschile americana è composta da questi Marines che stanno tutti alla base di Fort Benning in Georgia, che si allenano lì e che infatti una volta ogni tanto, ogni due anni, fanno anche le missioni in Iraq, in Afghanistan, quindi insomma anche missioni di una certa pericolosità. Ovviamente stando là, studiando là, frequentando quindi le gare loro nazionali, ho avuto modo di conoscerli bene, con molti ho stretto un'ottima amicizia e difatti appunto dopo la laurea di dicembre ho avuto la possibilità di allenarmi con loro al centro olimpico a Colorado Springs e imparare da loro così come loro hanno imparato da me, ecco, è stato uno scambio proficuo da entrambi i lati. Insomma, è la cosa bella di un'attività internazionale, ecco, poi hai tutte queste amicizie in giro per il mondo, ecco, al di là della medaglia, che poi quella si dimentica fra qualche anno, si rimangono queste relazioni. Senti, laureato in ingegneria con quale specializzazione? Quindi diciamo non c'è solo la carabina, c'è soprattutto un futuro, no? Come te lo immagini? Ma sì, io era ingegneria manageriale, io ho fatto i primi due anni all'Università di Firenze e poi ho chiuso la quinquennale trasferendo gli esami e facendo tre anni alla West Virginia University. Questo, ecco, quasi vorrei fare una reclama, no? Nel senso che lo sport inteso anche come opportunità che si aprono, non solo che ti specializzi, insomma farai quello, poi da grande farai l'allenatore di quello, no. Io attraverso il tiro ho ricevuto una borsa di studio, per cui all'università era pagato e ovviamente non è stata questa grandissima passeggiata, esperienza americana tutta parti e cose, insomma la mattina andavi a lezione, il pomeriggio ti allenavi e la sera studiavi, però insomma ne è valsa la pena, tanti sacrifici, però sono cresciuto io come persona, l'attività sportiva sono maturato anche lì, ho chiuso una laurea che un domani sarà utilissima e perché no, ecco, insomma abbinare sport e studio non è facile, soprattutto in Italia, e questo lo riconosco, però è possibile. Una curiosità, ma voi tiratori al segno rimorchiate come i giocatori di football americano oppure quelli del basket? Avete lo stesso appeal sulle universitarie americane oppure è più dura pure in quel campo? No, è dura, è molto dura, soprattutto se poi vai in America e con te viene anche la sua fidanzata. Ah beh, allora, perché allora questa poi la tagliamo, perché sennò sì. ti metto nei guai. No, ma ecco, no, tra l'altro la mia fidanzata è anche tiratrice nella squadra olimpica, tirerà a Londra con me, è Petra Zublasin, tiratrice di carabina, e anche lei studente di ingegneria West Virginia University, e anche lei con la borsa di studio per il tiro. E allora, insomma, marcatura uomo e riga dritto, caro Niccolò, se no sono lì in famiglia. Sport che molto spesso ci regala la prima medaglia olimpica, e vediamo a Londra come andrà, e non aggiungo altro, ma sport pure disciplina che proprio solo in ambito olimpico trova la giusta visibilità, le giuste attenzioni. Soffrite un po' nell'ambiente di questi riflettori che si accendono a intermittenza, oppure tutto sommato è un enclave così chiusa e particolare che il rapporto con i media non è poi così essenziale? Appunto, ci sono pro e contro, no? È difficile dire bene o male. Ovviamente è un po' più facile per noi avvicinarsi, perché siamo, ecco, prima di un grande appuntamento siamo tra virgolette nascosti, e quindi la pressione non è così alta. Allo stesso tempo, però, secondo me più che altro ne perdono, ecco, la gente comune a non scoprire questi sport minori, perché secondo me, insomma, ci sarebbero anche delle belle storie da raccontare e anche dei modelli sportivi da far vedere ai giovani, che probabilmente molte volte sarebbe un po' meglio del modello offerto da molti giocatori di calcio. Quindi, insomma, peccato che non ci conoscono, perché poi purtroppo chissà la gente cosa si immagina, no? Molte volte, oddio, in questi poligoni di tiro, questi bottaroli, guerrafondai, no? è tutto diverso. Il tiro è una disciplina, è quasi, insomma, a livello poi alto, si avvicina quasi allo yoga, un'arte zen di autocontrollo del respiro, del battito, dei pensieri, e per me, ecco, affiancarlo a un'età come l'adolescenza, dove uno si forma, è stato utilissimo, perché poi sono cose che ti porti nella vita di tutti i giorni. Io, ecco, proprio così, visto che siamo in tempi di maturità, mi ricordo quando ho fatto io la mia maturità, che c'erano tutti i miei colleghi studenti nel panico più totale, fino all'ultimo a rivedere la pagina del libro, e io ero relativamente tranquillo, conscio di quello che sapevo, quello che non sapevo, adesso vediamo che succede. Quindi, insomma, sono cose che sono utili al di là del punto in più, punto in gara. Beh, allora, noi a bordo campo, nel nostro piccolo qui a Radio 24, questa parabola, una di queste parabole, abbiamo provato a raccontarla, è quella di Niccolò Campriani. E allora, un grazie a Niccolò per essere stato nostro ospite, e andiamo a risentirci dopo Londra, che magari ci sarà un altro bel capitolo da raccontare ai nostri ascoltatori, no? Che dici? La chiudiamo così? Sì, sì, grazie a voi per questa opportunità e ci risentiamo dopo Londra. A bordo campo. Ospite davvero d'eccezione oggi qui a Radio 24, qui a bordo campo, perché se provate ad aprire il sito internet danielemolmenti.it, tra le varie foto che ci sono, che vi capita di vedere, ce n'è una con Daniele, che oggi è il nostro ospite. Benvenuto intanto. Ciao, grazie mille dell'invito a tutti i radioascoltatori. Ecco, diciamo, c'è questa foto di Daniele Molmenti con fascetta da Rambo, tutto fisicato, insomma, la corsa verso Londra 2012, Daniele, tu che la fai con la pagaia in mano, perché sei la punta della nazionale azzurra di canoa fluviale, è veramente una battaglia, eh? Guarda che tra l'altro quella foto non l'ho presa a tradimento quando ero in montagna, che ogni tanto vado a prepararmi anche in montagna, insomma, è quella lì. Se la foto a tradimento poi è venuta bene, ho detto mi chiamano spesso Rambo per la tartaruga al braccio, quindi insomma l'ho messa nel sito anche per far piacere a qualche ragazza. E beh, insomma, tutto fa curriculum, diciamocelo, che non solo le medaglie, che pure sono tante, la più brillante nel curriculum di Daniele è sicuramente l'oro nel K1 individuale nei mondiali di Tachen e il bronzo poi a squadre nella stessa edizione, mentre quest'anno a Bratislava è arrivato un argento a squadre e una medaglia di legno, ai noi un quarto posto sempre nel K1 individuale. Insomma, Daniele, si pagaia verso Londra in una disciplina che anche attraverso i tuoi successi, le tue vittorie, sta acquisendo sempre più popolarità, no? Era ora, perché sempre tra le più viste le Olimpiadi e sempre nelle altre nazioni una delle più parlate, perché sai, molto spettacolare, c'è comunque a livello europeo una grossa tradizione di questo sport. Noi abbiamo ancora Pierpaolo Ferrazzi, che adesso è allenatore, che è stata la prima medaglia olimpica in questo sport, quindi per gli addetti ai lavori, insomma, la canoa fluviale è sempre stata una specialità olimpica dove abbiamo sempre fatto belle figure, ecco. C'è stato, dopo, quando lui ha smesso, c'è stato qualche anno di buio, e adesso insomma ci sono io che ho un bel curriculum, e toccando ferro e toccando anche altro, insomma, un po' tutto, toccando tutto, speriamo il possibile di non far brutte figure, ecco. L'invito è anche quello di venirti a vedere a Londra, per chi, per i fortunati che troveranno i biglietti, perché la canoa fluviale, perdona il paragone, ma il percorso mi fa venire un po' Gardaland in mente, un po' Gardaland Disneyland, perché è un percorso artificiale spettacolarissimo, un fiume che discende e voi che dovete slalomeggiare tra questi paletti, semplificando, Sì, beh, è proprio così, considera che comunque tutti i percorsi olimpici vengono fatti ovviamente per edizione olimpica e dopo diventano parchi per il rafting, per il turismo, per la canoa turistica e per i passi che si buttano giù, e per noi che continuiamo a fare questo sport. E sicuramente a livello sia televisivo ma anche dal vivo soprattutto è davvero molto spettacolare. E puntiamo molto su questo punto qua, proprio per portare gente a venire a vedere e poi insomma a provare anche questo sport. È ovvio che ci vuole un po' di coraggio, perché non è la partita ping pong e non è la classica corsetta intorno a un parco, però di solito chi prova se ne innamora subito. Tra l'altro, c'è dal punto di vista tecnico differenze, se sì quali, tra i circuiti, tra i bacini artificiali e quelli invece naturali? Beh, considera che i fiumi naturali sono stati creati in millenni, quindi l'onda ha scavato la roccia e quindi l'onda è sempre lì. I canali artificiali invece praticamente sono degli invasi, sono dei canali di cemento, dell'acqua viene spesso pompata praticamente sul lago di partenza e dopo loro creano la pendenza tutto artificialmente, quindi fanno la collina, fanno questo percorso, e l'acqua e gli ostacoli sono di plastica, quindi cosa vuol dire? Che ci sono dei continui invasi, quindi l'acqua arriva, si gonfia e cala e va via, si gonfia e va via, quindi nelle zone delle porte dove giriamo attorno, quelle che facciamo contro la corrente, lì l'acqua cambia continuamente, le onde si spostano a volte anche di metri, quindi è molto molto più difficile tecnicamente un canale artificiale. Certo, ma come sentite dalle parole di Daniele, si sviluppa attraverso questo sport un'acquaticità, un rapporto con l'acqua, con l'elemento della natura, che è del tutto eccezionale. Da modestissimo praticante di rafting, ci sono delle foto compromettenti anche da parte mia, ma preferisco non svelare, devo dire che c'è questo straordinario dialogo col fiume, perché effettivamente chi riesce a entrare in simbiosi con l'elemento fiume, con l'elemento acqua, vede delle cose, vede dei percorsi, vede delle strade che al comune nuotatore sfuggono, vero? È proprio vero, sì. Questo punto è fondamentale. Di solito io faccio le gare ormai su canali artificiali, quindi diventa un po' più una palestra, però quando ho bisogno davvero di abbandonare un po' questo mondo agonistico, la mia discesa in qualche fiume, e poi qualsiasi fiume ti dà queste emozioni. Insomma, una discesa da solo, in compagnia, me la faccio sempre. Parlavi di palestra e al di là di quello che è l'aspetto tecnico della canoa fluviale, per la preparazione importantissimo è proprio il lavoro in palestra. So che tu ti fai delle abbuffate di pesi che, che insomma diciamocela tutta. Lontano dalle gare diventa importante, perché comunque sei a combattere un po' anche a volte contro l'acqua, e di solito è parecchio grossa e parecchio forte, quindi ci vuole davvero una forza fisica importante. Quindi lontano dalle gare, soprattutto nel periodo invernale, ci carichiamo molto di pesi proprio per avere questa forza che poi d'estate serve, insomma, per fare le gare. Un dato che io ne vado fiero, per chi conosce l'esercizio, che è la spinta su panca, no? La classica spinta su panca, sì. Pettorale, quindi pettorale, braccia così. Io il mio massimale è di 160 kg. Chi fa un po' palestra sa che non è una stupidaggine, ecco. Aspetto importante è anche l'alimentazione. Come vai a preparare in particolare un'Olimpiade? Cioè, cambia qualcosa l'importanza dell'allenamento e dell'appuntamento in qualche modo ti ha portato a modificare la tabella di marcia verso Londra? Beh, sicuramente, sai, alle Olimpiadi sono tutti forti, sono tutti preparati tecnicamente, sono tutti che hanno voglia di vincere, e io ne conto dei che hanno una decina di probabili che potrebbero vincere, insomma. La differenza viene fatta dalle piccole cose, quindi da come si dorme, da come si mangia, da come si legge il percorso, tutte cose ormai che non puoi più cambiare quel giorno lì, no? Ma sono tutte costruite nei mesi precedenti. Io quest'anno ho avuto la fortuna di entrare nel team della Enervit, che praticamente mi segue con una dieta specifica per il mio sport, e c'è lo staff medico loro che mi ha fatto proprio il programmino per avere l'integrazione giusta. Noi atleti, se dovessimo guardare, insomma, tutto quello che ci serve per mangiare, dovremmo fare tre cene, tre pranzi, quindi l'integrazione diventa importantissima. Senti, ti chiedo invece, dal punto di vista tattico, che sport è, che disciplina è la tua? Quanto lavorate appunto nella conoscenza del percorso? Come lo studiate? Sai, sicuramente nella preparazione il video è fondamentale, perché ti rivedi gli errori, rivedi la postura. Il lavoro col video è praticamente quotidiano. Lavoriamo molto vicino alle gare, poi quindi sulla tecnica, per capire le onde di quel percorso lì, ogni canale in base alla pendenza, in base a quanta portata d'acqua c'ha, anche in base all'acqua, se è salata, se non è salata, se è fangosa, non è fangosa, può cambiare molto la sua durezza, no? Quindi come bisogna approcciare, le velocità che bisogna avere. A livello di competizione, la differenza tra un atleta che vince e uno che non vince proprio viene fatta nella strategia di gara. Noi abbiamo, il percorso dura sui 100 secondi, quindi dopo un minuto arriva l'acido lattico, quindi sei più stanco e bisogna vedere quindi se bisogna tenerne un po' per la parte finale o se si può spingere perché l'acqua corre. Ci sono un sacco di variabili, perché poi l'acqua, ripeto, cambia sempre nei canali artificiali, quindi bisogna essere aperti a dover cambiare la propria strategia, però averne una di base solida e sicura per poter avere quella tranquillità che ti permette di pagaiare. Toglimi una curiosità: quando ogni tanto vedo qualche gara e vedo che vi girate, no? Perché capita pure quello, che per un istante andate sotto, vi rigirate completamente con la canoa e poi riuscite a ritornare incredibilmente in gara, che si pensa? Ma sai, il livello di concentrazione è talmente alto che se anche metti la testa sotto per un secondo o due forse stai maledicendo qualcosa o qualcuno, però dopo di solito rientri in gara. Quando succedono queste cose qua ho le semplici penalità, sai che noi se tocchiamo i paletti abbiamo 2 secondi di penalità, no? Se uno pensa che sta perdendo tempo, magari si agita e comincia a cercare di andare più forte, fa ancora più errori. Uno bravo sa che questo può capitare e riesce a rientrare subito in gara. Considera che il mio allenatore, sia l'oro che ha vinto a Barcellona, sia il bronzo di Sydney, lui ha messo la testa sotto acqua. Insomma, si può vincere anche mettendo la testa sotto. E allora, sangue freddo, testa all'asciutto e pagaiare, queste le parole d'ordine per Daniele Molmenti sulla strada verso Londra 2012, il grande campione della canoa fluviale azzurra, che oggi è stato nostro ospite qui a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie Daniele per averci fatto compagnia. Grazie a voi dell'invito e darmi un po' l'occasione di raccontare le bellezze del mio sport. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it, riascoltarci dal nostro sito internet e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sulla nostra pagina web. L'appuntamento come sempre per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina alle 6.30 in replica. Buona giornata da Dario Ricci.